fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qua, ben ritrovati sulla nostra interconnessione web di Resto Radio Convento. In questo momento sono accerchiato, sono, come dire, assediato da quattro gaie e simpatiche, ma posso dire anche di più. Ciao! No. Lo stanno dicendo loro, simpaticissime, bellissime ragazze di Montisola. Ciao! Ciao! Montisola si trova in mezzo al lago di Seo. Esatto. Sì, esatto. Si prende il traghetto dove? Sulzano. Sulzano, Sale Marasino. Ah, proprio in coro, proprio in coro. Siamo più siete all'unisono. Ce lo siamo studiate tutte. Ho capito. Sì. Sono preparate? E queste degne rappresentanti di quest'isola, di Montisola, si chiamano, dalla mia sinistra, Francesca, Roberta, Lucia, Federica. Federica, quanti ricordi con Federica? Anche noi quanti ricordi. È bellissimo. Ma scusate, questo che problemi ha? Non so, in questo momento dovremmo fare la radiocronaca, perché gli amici a casa non sanno perché stiamo ridendo. Ma noi siamo in pratica in una specie di acquario, dentro all'acquario, e fuori c'è la pista da ballo del ristorante convento. Esatto. In questo momento si stanno strusciando questi bei maschioni. Ci stanno strusciando e ci stanno facendo vedere delle cose. È bellissimo. La Roby è partita. No, la Roby è lei, io sono la Franci. La Franci, scusami. No, più che altro perché la Roby c'ha due Roberti davanti. Sì, io purtroppo. Esatto. Ma come Franci. Purtroppo? Tu siete tutte portatrici sane di tete. Oh. Oddio, la Franci un po'. Oddio, io purtroppo sono la più piatta. La più piatta. Ma che non è vero? Però. Non è vero. Okay. Ma non ti preoccupare, Franci, quando ce l'ho un po' per tutti, insomma. Quando vuoi. Non è vero, non le dimostri, ma ci sono anche loro, benissimo. Allora, siete qua, ragazze, per festeggiare il compleanno di una persona speciale che è al mio fianco in questo momento. Sì, è il mio compleanno. Cioè, è già stato il mio compleanno. La Franci, sì. Che compie quanti? 23 anni. Quindi ci posso provare, perché quindi non... Già maggiorenne. Infatti, sei maggiorenne. No, scusate, anche il mio compleanno. Ah, sì, scusa, mamma mia. Oiaia! Che caramba! Che fervor! Allora, è il compleanno della Franci e della Luci. E della Luci, la Luci. Quanti ricordi? Lucia. Quanti ricordi? Più Federica, guarda. Ah, beh, a una certa età si hanno questi ricordi. Quindi, 23 anni la Franci e 23 anni Lucia? No, 26. Ah, 26. Ti porti male però, No, stavo scherzando, stavo dicendo, guarda, sei molto giovanile, non te li davo. Te ne davo 23 come Franci. Grazie. E a Montisola cosa si fa di bello? Si respira l'aria buona. Vicino. Si respira l'aria buona. Ecco perché avete questi polmoni così. Queste ragazze hanno questi polmoni. Raccogliamo le olive, ci teniamo in forma pescando, essiccando le sardine e traghettando tutte le mattine. E in questo acquario si spalmano tutti addosso. Ragazzi, guardate, vi voglio ancora qua. Venitemi ancora a trovare, ma perché... Ma di sicuro! Rizzate energia! Da tutti i porri! Ma è tipico dei montisolani, noi siamo isolati, ma non per niente, ma soltanto... Siamo isolati, ma noi siamo grandi di cuore e di spirito. E di spirito montisolani doc. Questi anche. Ah, sono anche. Sì. Sono con voi, quindi. Sì. Queste persone che si stanno strusciando sul nostro acquario. Sì. Ecco, bellissimo. Quindi siete in quanti? 26. 25. Tutti col traghetto siete venute? Certo. Sì. Ma come funziona? Quindi c'è un traghetto che va avanti e indietro? Sì. Ma anche la notte? Anche la notte. Tutta la notte. Ah, però. Abbiamo una rappresentante. Meno male. Tu sei la traghettatrice? No, io ho una carronta. Sei la carronta? La carronta. Caronte, eh? Il traghettatore delle anime morte. Più vicina, più vicina. Sono sorella e papà che lavorano sul traghetto. Ah, certo. È Caronte, il traghettatore delle anime morte. Mamma mia, mamma mia. Bello. Comunque, se non sapete cosa fare una domenica invece di venire sul lago di Garda, che c'è tantissima gente, proponici venite proponici. A fare una gita a trovarci. Cosa c'è da vedere sul lago di Seo? Troverete siamo tanto a Montisola. Noi. Io vengo a Montisola, a parte questi fiori primaverili anche autunnali, cosa possiamo trovare? Fate una passeggiata, staccate la spina per un paio di ore. Quindi Montisola al buio è bellissimo. No, nel senso, io meno, anche al buio. Ci è sto bella, lo facciamo strano, no, facciamo gli incontri al buio, facciamo bellissimo. Anche per uno che purtroppo vive in città, come via me, la macchina, via tutto, piedi o andici. Perché lì non si può venire con la macchina. Assolutamente no. Ma però neanche con si la lascia la macchina sul Zano. Si lascia la macchina sul Zano, sì, a piedi, sì, a pioppe, come si chiama? A pioppe. Sì. E poi dopo di là cosa c'è? Puoi visitare le frazioni, puoi andare in cima all'isola che c'è. Le frazioni, le divisioni. Le moltiplicazioni, bello. Cioè, in pratica facciamo delle cose di matematica. Ma soprattutto poi godersi quello che c'è da vedere, mangiare. Ecco, mangiare mi piace. Mangiare mi piace. Cosa c'è? Le sardine con la polenta. Che sono afrodisiache. Afrodisiache. La Franci sta attentando alla mia tiroide. Si può dire quello, in radio, si può dire. Questo affacciato con la coroncina è somoroso. Ah, ecco. Si fa gli anni anche lui, tra l'altro. Esatto. È bellissimo, quindi avrò le braccine spezzate dopo. Sì, quando probabilmente. E è perché è siculo, è un isolano ma siculo. Potrebbe essere. Va bene, allora rientro nei ranghi. Vi ringrazio per la compagnia. È stato un piacere. Il piacere è tutto mio, perché sono molto egoista. E quindi, e quindi salutiamo tutta Montisola. Gli abitanti di Montisola si chiamano Montisolani. Si chiamano Montisolani. Salutiamo tutti i Montisolani, in particolare la mia amica carissima Federica. Lucia. Roberta. Io volevo vedere se eri attenta. Roberta e la Franci. E la Franci. Per gli amici, Francesca. Francesca. Quindi, ciao ragazze. E ciao. Per gli amici. Volete dire qualcosa? Il Massi! Oi, oi, oi, oi. Veniteci a trovare a Montisola, non fate i soliti guastafeste. Messaggio proloco solo per Montisola, vai. Veniteci a trovare a Montisola, non vi farete mancare proprio niente, vi divertirete un sacco. Ciao ragazzi, da Mr. Dave e dalle Montisolane. Ciao! Ciao.